Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? The new vibe, shaking me, making me alive and drive, striving towards my goal, the old five. Minute temporary frills I've done with, cause I'm a serious brother man, not a dumb kid. It's rapidly dawning on me the morning, and I stop yawning, forming in my brain a new plan for you and yours can get or start rolling upstream. It's a must, I trust all of us can lift the cup team and see the new meaning of the word togetherness. Climb it like Everest and we'll be forever blessed. I press the pulse, we're still taking over. Eccomi qua, 8:04 minuti, magazine del lunedì, che oggi avranno diverse intersezioni tra musica, ricorrenze, letteratura e anche un festival di cui vi ho parlato, che sarà per il mese di agosto dall'8 al 16. Torna Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu Berchidda e altri 14 centri e località della parte nord della splendida Sardegna. Siamo a pagina 16 della Domenica del Sole 24 Ore. L'amore cosmico dentro un sassofono, e poi vi spiego qual è l'amore cosmico e supremo dentro queste note di uno dei dischi che hanno fatto la storia della musica. E già lo lancio che poi avrete modo di riconoscerlo anche senza bisogno di presentazione. Quando dicono quali sono i dischi che porteresti sull'isola deserta, ecco, indubbiamente uno è questo. Per l'articolo scritto dallo stesso Paolo Fresu a pagina 16 sull'inserto Domenica del Sole 24 Ore, opera discografica A Love Supreme, ha cambiato il corso della storia del jazz. Sì, allo stesso modo come è stato qualche anno prima, nel 1959, per Kind of Blue di Miles Davis. Ecco, per me questi sono i due dischi portanti, fondamentali. A Love Supreme, John Coltrane incide 50 anni fa il suo capolavoro. Inno interiore che anela al divino, quasi un canto gregoriano rivoluzionario per il jazz. Paolo Fresu dedica la prossima edizione di Time in Jazz al disco e qui spiega il perché in questo articolo che vi ho appena letto dall'Incipit. L'opera discografica Love Supreme ha cambiato il corso della storia del jazz. Allo stesso modo, qualche anno prima, Kind of Blue di Miles Davis, al quale registrazione John Coltrane partecipa in veste di solista assieme a Cannonball Adderley e Bill Evans. Pensate, in Kind of Blue che All-Star Game. Poi parleremo anche della formazione di A Love Supreme, della sua struttura, di questo canto gregoriano, come giustamente Paolo Fresu lo ha definito. Sarà dedicata l'edizione di Time in Jazz ai 50 anni di A Love Supreme e, oltretutto, aggiungo il lavoro della storicità del festival, 35 anni per Time in Jazz, e il docufilm che abbiamo presentato, abbiamo anche visto. Confesso che avrò modo di rivederlo perché mi è piaciuto veramente tanto. Complimenti ai registi di questo lavoro estremamente intenso, 1500 ore di registrazione di concerto, testimonianze, veramente una passeggiata molto intensa tra bellezza, note, laboratori, poesia e grandissima musica. Sarà dedicata all'uscita, ai 50 anni dall'uscita l'uscita di A Love Supreme di John Coltrane l'edizione 2024 di Berchidda Time in Jazz. A Love Supreme, John Coltrane. Preghiera, un disco che porta al pianoforte McCoy Tyner, Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones alla batteria e ovviamente il grande John William Coltrane al sax tenore. Rischioso, mettere assieme il suo Watty, il capolavoro che ha cambiato la storia tecnicamente nel jazz, una delle cinque rivoluzioni di Miles Davis, da Kind of Blue 1959, qua lo sentiamo nel brano di apertura di Kind of Blue, So What. Anche qui la formazione con Julian Cannonball Adderley contralto, Paul Chambers al contrabbasso, James Cobb alla batteria, Coltrane al sax tenore, Bill Evans, Wynton Kelly per quanto riguarda la struttura al piano, anche questa formazione registrato immediatamente questo disco per Columbia Records. Detto fatto, Miles un tecnico non molto attento a ogni sfumatura, un ricercatore, un tecnico, uno che si ispirava, in effetti le sue rivoluzioni poi sono nate da diversi percorsi, non so, nel cool jazz con Gil Evans, il jazz rock con Joe Zawinul, lo stesso modale sulle scritture di George Russell, insomma guardava molto attentamente. John Coltrane sempre appiccicato, ammirato, voleva saperne di più, conoscere le sue modalità di lavoro, tanto più che era un po' scocciato Miles Davis dalla presenza di John Coltrane, un po' probabilmente perché due galli nel pollaio, se vogliamo, ma due entità completamente diverse. Tornando a Love Supreme, nell'articolo a pagina 16, alla ribalta, l'amore cosmico dentro un saxofono, timing jazz e filo conduttore per questa edizione. Intanto l'articolo che troviamo di Paolo Fresu, direttore artistico della Kermesse, nelle note di copertina dell'album, vergate a mano, Coltrane si rivolge a Dio con una preghiera laica che sa di suono e questa diviene un inno interiore che anela al divino, un'invocazione necessaria e contemporanea nella sua attualità. Perché mai, come in questo momento, c'è bisogno di permeare la società e l'uomo che la compone con l'amore e il ringraziamento, unici e veri strumenti capaci di condurci per mano verso la bellezza e verso quel dialogo che sembra mancare. Letteratura, cambiamo e ci sarà una sorpresa in playlist, anche più di una per oggi, a pagina sempre 12 di Ultrasuoni, nell'inserto di Alias per il manifesto, letteratura, passione rock, sul momento ancora, vedendo anche le immagini così, poi mi sono appassionato nella lettura e ho trovato delle particolarità veramente molto interessanti, artisti e band che per i loro brani hanno tratto ispirazione dai grandi classici e non solo, in questo caso direi di no, anche se ovviamente il libro in questione è già storia, se vogliamo, e stiamo parlando dei Cure, pensate, tra l'altro i Cure, per quanto quanto riguarda musica, anche che non mi appartiene, ne riconosco un talento eccezionale, come riconosco anche oltre di talento eccezionale per gli Smiths e tanti altri gruppi, Simple Mind, i primi Simple Mind, fino adesso non ricordo il titolo del disco, quello che ha anticipato Alive and Kicking, ecco, adesso non ricordo esattamente, mi aiuterete voi magari al 333-180-9494, però per me Simple Mind avevano un tiro funky incredibile nei primi dischi. A Cure, una grande ispirazione e un gusto molto forte, pubblicarono la canzone, attenzione, questo che ho letto mi ha affascinato tantissimo, la canzone Charlotte Sometimes come singolo nell'ottobre del 1981. Questo brano non faceva parte di nessun album e rappresentò un passaggio importante, Fade Pornography, i dischi che segnarono la definitiva consacrazione della band britannica. Il pezzo rendeva omaggio, pensate, a un libro pubblicato nel 1969 e firmato da una schiva autrice inglese specializzata in letteratura per ragazzi, ma lontanissima dal mondo del rock. Il romanzo è una favola fantasy incentrata sull'idea della doppia identità Equicure. Una giovanissima protagonista, Charlotte del titolo, è appena entrata in un collegio, di quei collegi, no? Già potete immaginare, con queste ambientazioni gotiche, e scopre che ogni notte, come in un sogno, si trasfigura in una sua coetanea vissuta decenni prima, al tempo della Prima Guerra Mondiale. Beh, le due iniziano a vivere una vita condivisa, uniscono le loro esistenze, ma senza incontrarsi mai e corrispondendo solo attraverso delle pagine di un diario. L'incipit del libro era: questo era l'ora di andare a dormire. E per Charlotte tutti i volti e le voci si erano dissolti in un solo volto e in una sola voce. Si trasforma tutto ciò nei versi della canzone, tutte le facce, tutte le voci si confondono, cambiano in una faccia, cambiano in una voce, ha raccontato il leader dei Cure. Sono sempre stato ossessionato da Charlotte Sometimes, da quest'idea di caduta temporale, di dualità, di problemi di personalità e dalla tortura, dal disagio, no, che ne consegue. Charlotte, dopo la sua prima notte in collegio, si risveglia ed è 40 anni indietro ed è in un altro corpo. Beh, io ho trovato il brano, ve lo propongo e dopo continueremo con questa storia, perché Robert Smith incontrerà l'autrice del romanzo di cui vi ho appena letto l'incipit. Cultura legata al gotico non mi ha mai affascinato, neanche da queste sonorità, ma questa storia invece è estremamente interessante, eh? Pensate che addirittura questo si collega al tema dei gemelli, su cui Penelope Farmer ha scritto un libro affascinante, True or the Book of Twin and Double. Farmer era nata con un parto gemellare. Ho sempre sognato di avere un gemello, dice Robert Smith, qualcuno che non si può ingannare, che sarebbe sempre lì come uno specchio. Beh, il 45 giri, Charlotte Sometimes, questo che stiamo ascoltando, sul lato B aveva un brano strumentale, Splinted in Her Head, ugualmente ispirato al romanzo, quindi basta. Tuttavia, quando uscì, entrando in classifica in Inghilterra, la Farmer ne ignorava completamente l'esistenza. Nell'appendice dell'edizione italiana del libro, l'autrice stessa racconta lo strano rapporto con una canzone che ha segnato la fortuna della sua opera. Fu la figlia a informarla, Da quel disco, una volta ascoltatolo, la scrittrice, completamente aliena al mondo del post-punk, invece di considerarlo una lusinga, sapete cosa fa? Lo denuncia, aderisce a vie, a di, comincia con la dire scusate per le vie legali, quindi denuncia per questo plagio. Per fortuna però tutto ciò viene fermata, non avviene anche perché l'editore si era accorto che il libro, grazie a Light Day Cure, era continuamente richiesto nelle librerie. La storia ebbe anche un lieto fine con l'autrice Penelope Farmer, che incontrò Robert Smith ad un concerto a Londra nel 96, il primo a cui l'autrice avesse mai assistito. È a lui che le porse la sua copia del libro, regala praticamente Robert Smith la sua copia tutta sgualcita del libro, annotata, sottolineata, per un autografo con dedica. Mio fratello maggiore ci leggeva sempre qualcosa prima di andare a dormire, disse in quell'occasione il cantante. Avevo circa 12 anni e lui ci leggeva ancora libri. Che storia! Ho messo la voce così un pochettino eterea, come ricordare Ectoplasmi di Letizia Sadie, in questo disco tra l'altro molto molto bello e interessante. Silenzio, così dal titolo, lo teniamo come base perché i dischi portati in questo long format sono diversi, vengono citati Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, viene citato anche David Bowie e altri, ad esempio i Rolling Stones, e questi anche qui mi sono soffermato nella lettura. Uno dei casi più significativi, anche se forse meno riconosciuto, è quello di una delle canzoni più celebri dei Rolling Stones e della storia del rock, Sympathy for the Devil. A proposito di gotico, era la traccia di apertura dello storico album che ho qui davanti in vinile, capolavoro, Beggar's Banquet del 68, e venne letto all'epoca come un inno in incendiario, come il singolo tratto dallo stesso album Street Fighting Man incitava alla violenza e alle rivolte giovanili. Permettete che mi presenti, sono un uomo ricco e con gusto, recitano i primi versi del pezzo. L'uomo in questione è il diavolo, il grande burattinaio della storia, presente accanto a Ponzio Pilato, così come ai boia dei Romanov. La canzone è firmata da Mick Jagger e Keith Richards, ma in realtà è frutto della fantasia del primo, che era basato su uno dei casi letterari di quegli anni, il romanzo Il maestro e Margherita, non lo sapevo, di Bulgakov. E Infatti io me lo son portato, questo brano, che secondo me è un capolavoro assoluto, e ne ascoltiamo qualche nota. Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Di capolavori ne stiamo ascoltando in maniera trasversale, dal jazz al rock blues, insomma, passando anche per i Cure in ambito gothic, post punk, e anche una sorta di estetica assolutamente fruibile nel pop. Cure, grande gusto musicale. Non hanno bisogno di presentazione dal disco. Per me è il più bello, Beggar's Banquet. Vabbè, poi adesso si sta facendo una classifica dove non importa. Sympathy for the Devil. E passiamo a un altro maledetto, allora, cambiando. Maledetto, per modo di dire, prima della pubblicità volevo portare un'altra sorpresa nella playlist di oggi, perché ho letto questo articolo, Arte, pagina 39 di Robinson di Repubblica. Blake in viaggio verso l'assoluto. I tanti universi paralleli dell'artista britannico William Blake, fine Settecento, e le sue avventure di luce continuano a ispirare. Conoscete William Blake, no? Lui credeva che la gioia dell'uomo innalzasse la gloria di Dio, come dare torto. La religione praticata nel mondo come viene vissuta, invece dice è in realtà un culto del male, perché solamente la gioia dell'uomo può innalzare la gloria di Dio. E da qui potete immaginare cosa ha scatenato: un grande eretico e tutto quello che può essere per l'autore e l'artista William Blake. Angeli buoni e diabolici che lottano per il possesso di un bambino, visione dei figli di Albione, i canti dell'innocenza. Siamo nella seconda metà del Settecento. Sapete chi ha ispirato tantissimo William Blake in questo articolo molto bello a pagina 39 di Robinson di Repubblica? Tanto più di averne un anno in cui ne è stata completamente rapita, da portarne un singolo che ho trovato e che vi accompagnerà, anzi ci accompagnerà alla pubblicità. Lei è Patti Smith, My Blackened Year, il mio anno con William Blake. A tra poco, dopo la pubblicità, buon ascolto. My blackened year, I was so disposed toward a mission yet unclear, advancing pole by pole, marching breathed into my ear, mouthed the simple just a road. In my blackened year, such a woeful schism, the pain of our existence was not as I envisioned. Guarda te, io che ci tenevo per una serata importante che tra l'altro ha diverse continuità e relazioni tra letteratura, grafica, fumetto, impegno sociale, una bellezza che va da contenuto anche molto molto legato all'attualità. E con noi Silvia Albertazzi, che si era dimenticata dell'intervista. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Comunque vedi che sono qui pronta e presente. Certo, e come, ne sono, è per quello che mi sono permesso di scherzare. Intanto grazie per questa breve conversazione a chiusura dei magazine. Come stai? Hai passato un bel weekend? Spero di sì. Sì, abbastanza, certo. Bene, anche perché hai una serata molto impegnativa, no? Che inizia con la Sala Borsa e finisce con il mercato sonato del mercato. Esattamente, sonato. Sì. Ne ho parlato io nel last minute anche per la giornata odierna. Prima però in Sala Borsa tu sarai presente per un appuntamento che fa parte di una rassegna. Ci puoi dire qualcosa di più, Silvia? Sì, certo, molto volentieri. Dunque, questo, siamo oramai giunti al terzo anno di questa rassegna che curo insieme a Gino Scatasta sulla cultura inglese dagli anni 60 in avanti. Quindi ogni anno facciamo un decennio, siamo partiti con i 60, l'anno scorso i 70, quest'anno siamo agli anni 80. Certo. E sono quattro incontri, uno al mese, da febbraio fino a maggio, e poi speriamo di continuare, perché avremo ancora tante cose da dire, in autunno. Ogni incontro è dedicato a un genere, diciamo, quindi siamo partiti con il romanzo, abbiamo parlato veramente siamo partiti con una panoramica degli anni 80 nelle arti, diciamo, poi abbiamo parlato del romanzo, questa sera si parlerà del cinema e del teatro, e sarà con noi Valentina Vetri, che come anche gli anni scorsi ci parla di teatro, perché è la nostra esperta di teatro inglese. E finiremo il 13 maggio con la musica, e anche lì abbiamo il nostro esperto di fiducia di musica, che è Checco Garbari, che sì, tu conosci, certo. Il quale arriva con le sue mitiche, la sua mitica fonovaligia. Okay, sì. Quindi c'è l'ascolto abbinato. Quindi c'è l'ascolto con i vinili d'epoca proprio. Certo, gli originali d'epoca. Tra sì. L'altro nella playlist odierna, a proposito di anni 80, ho fatto una piccola divagazione, ho messo i Cure. Ho sentito, sì. Capito, è che sicuramente sono stati tra i protagonisti degli anni 80 e non solo a Londra. Però insomma un'attenzione tra letteratura e musica c'è stata, e come anche nei magazine. Dettagli logistici, ora come, dove, quando? Beh, è molto facile, è sempre alle 18, okay. Diciamo dalle 18 alle 19:30 più o meno, in Sala Borsa, nella sala convegni di Sala Borsa, che sta al secondo piano. Bene, e poi vi saranno anche percorsi futuri, perché non ci fermiamo qui, da quel che ho capito almeno. No, noi speriamo di andare avanti, insomma, almeno arrivare a ridosso dei nostri giorni, quindi magari l'anno prossimo faremo gli anni 90, non lo so. È una cosa che abbiamo cominciato quasi per scherzo negli anni, due anni fa, sulla falsa riga del mio libro Questo è domani, sì, che trattava dagli anni 50, dal 56 al 67, e quindi gli anni 60, abbiamo cominciato per scherzo con gli anni 60, poi ci è stato richiesto di continuare gli anni 60 anche in autunno perché c'era tanto da dire, questo è vero. L'anno scorso abbiamo fatto i 70, con gli 80 quest'anno ci troviamo di nuovo a renderci conto che il tempo non ci basta, e perché sono rimaste poi diverse cose, e non so, in autunno vorremmo parlare di fotografia, di fumetto, ma forse anche ampliare il discorso cinema, perché in effetti oggi stringere tutto assieme cinema e teatro verrà una cosa un pochino ristretta. È troppo sintetica, immagino, e quindi appuntamento questa sera alle ore 18 per quanto riguarda Sala Borsa. Corredate la serata in seguito come Silvia, che dopo sarà al mercato sonato, per cui una serata piena ma molto intensa di contenuti. Io ti ringrazio tantissimo, sei ma niente, piedi, figurati, vedo che la tua giornata, sì, la nostra giornata sarà particolarmente e piacevolmente lunga. Ci vediamo al mercato sonato alle 19:30 dopo il tuo incontro in Sala Borsa. È d'accordo, io arriverò, grazie, verso le 20, comunque ci vediamo senza dubbio. Un piacere. Grazie a te. Ciao, grazie, Silvia. Ciao, ciao, più tardi. Ciao. Buona giornata. Grazie anche a te. Di Paul Lynch, questa volta abbiamo anticipato Alias nell'edizione domenicale, è in prima pagina, in apertura dalla copertina di Alias della domenica del Manifesto, il lavoro, il canto del profeta di Paul Lynch che abbiamo presentato al Voltiamo Pagina. A volte i magazine anticipano, a volte sono di ispirazione per il Breakfast Club. Non semplice, ma da non perdere, comunque lo tengo per la prossima puntata probabilmente, la lettura del Corriere della Sera, che è in edicola per tutta la settimana. Orizzonti, geografie, Gorbaciov, un long format dedicato a questo periodo storico, ed è un articolo di Massimo Franco, ovviamente, che lascia motivo di riflessione allo stesso tempo, anche di a distanza conversazione con le riflessioni che portano appunto questi contenuti. Lo consiglio assolutamente, anzi la prossima settimana è probabile che sia all'interno dei magazine. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con Edipo Enciclopedico a seguire Liberi Dentro, dopodiché avremo la rassegna stampa dalle 9:30 alle 10:30 e poi abbiamo gli approfondimenti con Caffè e Paglia sugli appuntamenti legati allo sport nel weekend appena trascorso e anche di questo inizio settimana. Questo è il lunedì di Radio Città Fujiko. Tra i dischi consigliati del Manifesto, una piccola postilla anche, c'è questo lavoro che presentai in febbraio, Daniele Cordisco, chitarrista, Bitterhead, col featuring di Ron Carter. Ecco, lo teniamo come sigla di conclusione, ringraziandovi per l'attenzione e dando appuntamento a domani con il Move to Groove, puntuali dalle ore 7 con la prima colazione in diretta, il Breakfast Club. Un buon inizio settimana, vi aspetto questa sera alle 19:30 al Mercato Sonato per l'ufficiale presentazione dell'Eco del Padrone, la mostra curata dal Comitato di Ricerca del Pioniere e Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon lunedì, buon inizio a settimana dal vostro William Piana. Ciao!